Yeah, vino e che ye vina. E non parlatene male soltanto perché ne appena accesa una. Bella Luggiani, selecta. Yeah, Chiavari. Non c'è niente di più ridicolo di un rapper che si mette a fare reggeggiante. Reggae Salento, vino e che ye vina. Fai un tiro, cosa c'è di male? Siamo soli io e te, manca solo il mare per affogarci, perché sono la causa dei mali che governano in me. Così giro con gente che è messa peggio di me. Io ci ho pensato seriamente al domani, ma ho pensato anche a te e non ricordo più i piani. Sarà perché sti perché a Matteo lo dividono in tre. Già, da Binello a Pino e che ye Binè. Mi conoscono per quello che non sa cantare, mi conoscono ma vanno per il verso opposto. Ok, da un tot mi intossico e pago il costo. Racconto la storia di un tipo che conosco e non posso darci un taglio deraglio. È la vita mia ad ogni piccola gloria, al grande sbaglio. Mettilo in conto, pago io ma non ti offro. Un altro giro non posso, un altro tiro no. Non è che non si può, ma poi tu ti senti tra gli eroi. Io mi vedo scemo, proprio quello che non volevo. Quello che non chiedevo era sentirmi così. Sì signore, ho pregato signore per non sentirmi inferiore. Io ho chiesto aiuto, ci credevo, non credevo che un giorno, beh, non ci avrei più creduto. Qui lo dico e lo nego, se mi spiego mi contraddico. Raga, vivo in segreto e mi svelo dopo tre bocce da un litro. Oh, dopo tre bocce da un litro vado molesto. Quando bevo sono molesto. Esattamente, un vizio tira l'altro. Esattamente, un vizio tira l'altro. E sei un perdente, yeah. E non mi chiedere se sono contento, E non mi chiedere di stare più attento. Bella Luggiani, negli anni ho fatto più di un cambiamento. Reggae Salento, bella vino, vai, è il tuo momento, come stai? Bene, a parte le vene, ti ho scioccato, fai troppe scene. Poi magari racconti e sei col passaparola. Finisce che avevo il cappio alla gola. Ma le parole svaniscono col tempo, le immagini invece appaiono quando mi addormento. È l'abitudine dove abiti, quali gli alibi. Tanti gli stabili e pochi poi soggetti validi. Quanti con il progresso fatto a belle parole. Quanti chiami fessi poi li guardi le signore. Quanti poi chiami onesti e ti tirano il culo. E in quanti ancora chiami e non risponde nessuno. Esco con troppe facce, non puoi disfartene. Esco tanto ma non lascio mai tracce. Ma allora come cazzo sai delle minacce? Sbirci sul web o ti sei fatto le mie ex ragazze? Non mi chiedere di stare più attento. Sai quanti ne ho bruciati di biglietti da 100? No. E non mi chiedere se sono contento. Sai, io vivo periodicamente un cambiamento. Ti ho lasciato con la vista nebbiata, dopo che mi hai visto allegro con la faccia arrabbiata. Dopo che te la spiego la situazione è già mutata e sei rimasto indietro di una puntata. Io la chiamo la musica del sole, con il mare, belle persone, note piene di calore. Bravi raga, volete bene, bella cagata, paga. Sono in uno stato, bocciata l'avvio. Ma sono io, solo io, forse io, sono solo io. Ho tutto il resto che muta così di corsa. Oppure sei tu che non vuoi darti una scossa. Non mi chiedere di stare più attento. Sai quanti ne ho bruciati di biglietti da 100? No. E non mi chiedere se sono contento. Sai, io vivo periodicamente un cambiamento. Non mi chiedere di stare più attento. Sai quanti ne ho bruciati di biglietti da 100? No. E non mi chiedere se sono contento. Sai, io vivo periodicamente un cambiamento.